争取高山流水，清新淡雅。 二胡曲江河水，汹涌澎湃。 古琴曲流水，绕梁不绝。 水是美之源泉， 珍惜水资源，让美永驻人间。 北京人民广播电台古典音乐有限频道，有线调频98.6兆赫，欢迎收听。送生命，舞动青春，歌舞剧场，人生与梦想的舞台。北京音乐广播古典音乐有限频道，每天10点22点播出。 Mamma soltanto felice perché ritorno da te。 欢迎收听歌舞剧场。我是你的朋友古月，在今天的节目中，请欣赏安德烈·博切利演唱的威尔第的歌剧咏叹调。安德烈·博切利是意大利著名的跨界男高音歌唱家，下面我们将要听到的是他所演唱的威尔第的15首歌剧咏叹调，风格多样，难度极大，具有抒情性和戏剧性。博切利的演唱把不同人物的内心情感刻画得栩栩如生。下面请欣赏他的演唱，由祖宾梅塔指挥以色列爱乐乐团伴奏。 Figlio, prima d'amarti, non può frenarmi il tuo martir. Madre infelice, corro a salvarti, a te palmeo, corro a morir, a te palmeo, corro a morir, a te palmeo, a te tra poco col sangue nostro la spegnerò ero già figlio prima d'amarti non può frenarmi il tuo martir madre infelice corro a salvarti a te

amor. Se fosse l'ultima del nostro amor. Istanti, prima che il mio presagio interno sull'orma corsa ancora mi spingesse, schiuso era l'uscio e la magion deserta. E dove ora sarà quell'angel caro, colei che poté in questo cuore destar la fiamma di costanti affetti, colei sì pura il cui modesto sguardo quasi spinto a virtù allor mi credo. Ella mi fu rapita, e chi l'ardia ma ne avrò vendetta. Lo chiede il pianto per te.

mortal, mortal non va. Come mortal, mortal, mortal non va. Merce diletti amici, a tanto amor merce. Udite or tutti del mio cor gli affanni, e se voi negherete il vostro aiuto, forse per sempre, per nani fia perduto. Passito fiore, aragonese vergine, scendea mi voce al cuore, fu quello il primo palpito. Stendere, osa su lei la mano, domani trarla al talamo, confida l'inumana. Se la m'è tolta, poi misero da affanno, affanno, affanno, morirò, affanno, io morirò. Rapisca, si arrapica, ma inseguirci sta la partita. E il giurò, consolator. il loco morterrà, morterrà. Purché sul tuo bel viso venga a brillare il riso, gli stenti suoi le pene eternali scorderà. Oh, gli stenti suoi le pene eternali eternali scorderà. O tu che l'alma d'ora vien la mia vita infiora, per noi d'ogni altro bene il loco amor terrà, amor terrà. Purché sul tuo bel viso venga a brillare il riso, gli stenti suoi le pene eternali scorderà. Oh, gli stenti suoi le pene eternali eternali scorderà. Suprema, un altro ed è mio padre, un altro e questo è il re, lei che adoro m'ha rapita, la sposa a me promessa. Thank you. e cor, e speme, e sogni, e amore. Amato, speme, sogni, amore. Aprir sia l'alma mia in suono angelico amo te sol dicea mi tradia mi tradia mi tradia angelico t'amo dicea ammi tradia mi tradia vita inferno all'infelice in vano morte desio